suoi occhietti grigi, è il classico prototipo di scassacabasisi. Ti fa dei gran sermoni coi suoi orridi maglioni, ogni pretesto è buono per romperti i coglioni. Vuole la via tranquilla se beve camomilla, minaccia dal balcone di bucarti anche la palla. Contro tutti smadonna, pure contro la sua donna, se non va sul parquet con le pattine della nonna. Il mio vicino pige cieco come una falena, non troverebbe il culo a dirgli lì sotto la schiena. Però se c'è un cavillo scritto sul regolamento, in un attimo lo trova ed è già lì a darti il tormento. Ti impone il suo giudizio, non vuol sentir ragioni, lui gioca a nascondino solo con i suoi neuroni. Il guaio è che senza avvisare hanno deciso di emigrare, hanno trovato un posticino in un culo di babbuino. Pigi, oh Pigi, sempre a caccia di litigi, tira il portoncino che non si sa mai, si consola potando i suoi bonsai. Pigi, oh Pigi, lui si crede in un attico a Parigi, ma è proprietario di un monolocale in un condominio con vista tangenziale. Pigi, oh Pigi, basta una cacca di piccione già va in crisi. S'affoga tutto il giorno ad aerosole su Fumigi. Che porta in to' il mio vicino Pigi, che porta in to' il mio vicino Pigi. E dai Pigi, vieni a giocare con noi Pigi, e fatte la narisata, no? Pigi, Pigi il mio vicino, lui no che non dà spago, simpatico a tutti come muffa dentro al frigo. Anche se inizialmente ti sembra un tipo alla mano, ti parla come se non foste sullo stesso piano. Il mio vicino Pigi è quel che chiamerei un compulsivo minuzioso scassa Zebedei. Lui salza a fare pulizie anche alle tre di notte, si mette a far casino e degli altri se ne fotte. Pigi, oh Pigi, sempre a caccia di litigi, tira il portoncino che non si sa mai, si consola potando i suoi bonsai. Pigi, oh Pigi, lui si crede in un attico a Parigi, ma il proprietario di un monolocale in un condominio con vista tangenziale. Pigi, oh Pigi, basta una cacca di piccione già va in crisi. S'affoga tutto il giorno ad aerosole su Fumigi, che porta in to' il mio vicino Pigi. S'affoga tutto il giorno ad aerosole su Fumigi, che porta in to' il mio vicino Pigi, che porta in to' il mio vicino Pigi. Pigi, Pigi, Pigi, Pigi.